alleluia al Signore. Canta alleluia, canta alleluia, canta alleluia al Signore. Canta alleluia al Signore. Canta alleluia al Signore. Alleluia, canta alleluia al Signore.